Capitolo 45. Confidenze. Per tutto il resto della giornata Molly rimase avvilita e non si sentì bene. Avere qualcosa da nascondere era una circostanza così insolita per lei, quasi senza precedenti, e questo la tormentava. Era un incubo che non riusciva ad allontanare. Desiderava così tanto dimenticare tutto, eppure ogni piccola occorrenza sembrava ricordarglielo. La posta del mattino successivo portò numerose lettere, una da Roger per Cinzia, e Molly, che non ne aveva ricevuta alcuna, osservò la destinataria mentre la leggeva, con tristezza colma di nostalgia. Aveva l'impressione che Cinzia non dovesse trarre alcun soddisfazione da quei messaggi, fino a che non avesse rivelato a Roger quale fosse l'esatta natura dei suoi rapporti con Mr. Preston. Invece la ragazza arrossiva e si riempiva di fossette come al solito ogni bella parola di elogio, d'ammirazione o d'amore. Ma i pensieri di Molly e la lettura di Cinzia furono interrotti da una breve espressione di trionfo proveniente da Mrs. Gibson, che passò la lettera appena ricevuta al marito dicendo: «Ecco, devo dire che me l'aspettavo!» Poi, voltandosi verso Cinzia, spiegò: «È una lettera dello zio Kirkpatrick, amor mio! È così gentile! Si augura che andrai a stare da loro per aiutarli a tirare un po' su Ellen. Povera Ellen, temo che non sia fatto bene. Ma noi non avremmo potuto ospitarla qui senza disturbare il caro papà nel suo ambulatorio, e anche se io avrei potuto rinunciare al mio spogliatoio, lui... Beh, perciò ho raccontato nella mia lettera quanto tu fossi addolorata, tu soprattutto, perché sei come amica di Ellen, vedi, e quanto desiderassi renderti utile. Non ho dubbi che sia così, insomma, adesso voglio che tu vada da loro immediatamente, perché Ellen ci tiene tantissimo». Gli occhi di Cinzia brillarono. «Sarò felice di andarci», affermò, «se non per il fatto che ti dovrò lasciare, Molly», aggiunse a voce più bassa, come punta improvvisamente dal rimorso. «Riuscirai a essere pronta per partire con la Bang Up stasera?», chiese Mr. Gibson. «Infatti, per coincidenza, dopo più di 20 anni di tranquillo esercizio a Hollingford, oggi per la prima volta sono stato chiamato ad andare a Londra e devo trovarmi lì domani. Temo che Lady Kemnor sia peggiorata, mia cara». «Non ditemelo, povera cara signora, per me è uno shock. Sono felice di aver fatto un po' di colazione, non potrei più mangiare niente». «Ho solo detto che è peggiorata. Data la sua condizione, peggiorare può essere anche solo la premessa per il miglioramento. Non dare alle mie parole più del loro significato letterale. Grazie. Com'è sempre gentile e rassicurante il caro papà. E per gli abiti, Cinzia?» «Oh, sono tutti a posto, grazie mamma. Molly, vieni con me ad aiutarmi a fare i bagagli? Volevo parlarti, cara», spiegò non appena furono di sopra. «È un tale sollievo andarsene da un luogo infestato da quell'uomo, ma temo tu abbia pensato che fossi felice di lasciare te, e di sicuro non lo sono». In quelle parole c'era un certo sentore di eccessiva giustificazione, ma Molly non lo notò. Disse solo: «E io di sicuro non l'ho pensato. So per esperienza quanto tu debba detestare l'idea di incontrare in pubblico un uomo in termini differenti di quando l'hai visto in privato, e di sicuro io cercherò di rivedere Mr. Preston per tanto, tanto tempo, e Ellen Kirkpatrick. Ma Cinzia, non mi hai detto una parola della lettera di Roger. Ti prego, come sta? Si è rimesso completamente dal suo attacco di febbre?» «Sì, del tutto. Scrive con molto entusiasmo, tante cose riguardo uccelli e bestie, come al solito, e alle abitudini dei nativi, e cose di quel tipo. Puoi leggere da qui», indicando un punto sul foglio, «a qui, se puoi. E ti dico questo, mi fido che farai così, Molly, mentre io faccio i bagagli. E ciò dimostra quanto io riconosca la tua onorabilità, se non che potresti anche leggerla tutta, solo che troveresti l'amoreggiare molto noioso. Fai un riassunto di dove si trova, di cosa fa, della data e simili, e mandala a suo padre». Molly prese la lettera senza dir nulla e si mise a copiarla seduta allo scrittoio. Spesso rileggeva ciò che le era stato conseguito, spesso si arrestava, la guancia posata sulla mano, gli occhi sul foglio, e allora la sua immaginazione era lasciata libera di correre allo scrivente e alle scene in cui lei lo aveva visto di persona, oppure a quelle in cui se lo figurava. Fu risvegliata dalle sue meditazioni dall'improvviso ingresso di Cinzia in salotto, il ritratto di una gioia splendente. «Non c'è nessuno?» Che benedizione! Ah, Miss Molly, sei più eloquente di quanto tu creda. Guarda qua! Teneva in mano una grande busta colma e se la mise rapidamente in tasca, come temendo che qualcuno la vedesse. Che problema c'è, dolcezza? Avvicinandosi per carezzare Molly. Ti preoccupi di quella lettera lì? Ma non vedi che queste sono proprio le mie terribili lettere che brucerò all'istante e che Mr. Preston ha avuto la bontà di spedirmi grazie a te, piccola Molly. Juste la ma chère, battito del mio cuore. Le lettere che sono state appese per 2 anni come una spada di non so chi sopra la mia testa. Oh, sono contenta, replicò Molly, tirandosi un po' su. Non avrei mai creduto che le avrebbe mandate. È migliore di quanto pensassi. E adesso è tutto passato. Sono tanto felice. Credi che ora rinuncerà a tutte le sue pretese su di te, Cinzia? Potrà anche rivendicarmi, ma io non mi farò rivendicare. E adesso lui non ha alcuna prova. È il sollievo più meraviglioso. E lo devo tutto a te, preziosa piccola donna. Ora rimane solo un'ultima cosa da fare. E se solo tu la facessi per me, vezzeggiandola e carezzandola mentre glielo domandava. Oh, Cinzia, non chiedermelo, non posso fare altro. Non sai quanto mi ripugna ripensare a ieri e all'espressione di Mr. Sheepshanks. Ma è una cosuccia piccolissima. Non graverà sulla tua coscienza dicendoti da chi mi siano state restituite le mie lettere. Ma non è una persona alla quale io possa affidare del denaro. E devo costringere Mr. Preston a riprendersi le sue 23 sterline rotti. Ho calcolato la somma al tasso di interesse del 5% e l'ho chiusa e sigillata. Oh, Molly, partirei con il cuore così leggero se solo tu tentassi di consegnargli il denaro in sicurezza. È l'ultimissima cosa e sai, non c'è fretta immediata. Potresti incontrarlo per caso in un negozio, per strada, persino a una festa. E se solo tu avessi soldi con te in tasca, non ci sarebbe niente di così facile. Molly tacque. Potrebbe darglieli papà. Non ci sarebbe alcun male. Gli direi che non deve fare domande sulle ragioni. Molto bene, fece Cinzia. Come ti pare? Penso che la mia soluzione sia migliore. Perché se qualcosa di questa faccenda si viene a sapere... Ma tu hai già fatto tanto per me e non me la prenderò se rifiuterai di aiutarmi ancora. Detesto avere a che fare con lui con questi sotterfugi, lamentò Molly. Sotterfugi? Si tratta semplicemente di consegnargli una mia lettera. Se ti lasciassi un biglietto per Miss Browning, ti seccherebbe così tanto fargliela avere? Lo sai che è molto diverso. Potrei farlo alla luce del sole. Eppure ci potrebbe essere qualcosa di scritto e non ci sarebbe riferimento al denaro. Sarebbe solo la conclusione, l'onorevole, onesta conclusione di una faccenda che mi ha tormentata per anni. Ma fai come ti pare. Dammela, si arrese Molly, ci proverò. Ecco il mio tesoro. Provaci, e se non riesci a dargli soldi in privato, senza metterti nei guai, tienili finché non sarò tornata. Allora li avrai indietro, che lo voglia o no. Molly aspettava il tête-à-tête di 2 giorni con Mrs. Gibson con sentimenti molto diversi da quelli che avevano condito all'attesa del trovarsi unicamente in compagnia del padre. Prima di tutto non accompagnarono i viaggiatori alla locanda da cui partiva la carrozza e salutarsi nella piazza del mercato era completamente escluso dal senso della decenza di Mrs. Gibson. Inoltre era una serata piovosa, lugubre e le candele dovettero essere accese insolitamente presto. Per 6 ore non ci sarebbe stata tregua, niente musica, niente letture. Le 2 donne avrebbero atteso al loro lavoro di lana pettinata, chiacchierando meccanicamente del più e del meno, senza neppure l'interruzione usuale del pasto. Infatti, per rispettare le esigenze di chi era in procinto di partire, avevano già cenato. Ma Mrs. Gibson ci teneva davvero a rendere felice Molly e tentava di essere una compagnia gradevole, solo che Molly non stava bene. Era a disagio per la percezione di tante preoccupazioni e tanti guai, e nei momenti di difficoltà, come quelli che lei stava attraversando, le percezioni prendono la forma delle certezze e ci aspettano al varco. Molly avrebbe pagato chissà che per liberarsi di tutte quelle sensazioni, che per lei erano piuttosto inusuali. Ma persino la casa, i mobili e il paesaggio esterno, reso indistinto dalla pioggia, sembravano permeati di associazioni spiacevoli, molte delle quali erano collegate a fatti risalenti a pochi giorni addietro. Credo che la prossima volta dovremo partire noi due, mia cara, disse Mrs. Gibson, quasi intonandosi al desiderio di Molly di poter andare via da Hollingford per una settimana o due, a respirare aria nuova, una vita nuova. Siamo state a casa per tanto tempo e un cambiamento di scenario è così desiderabile per i giovani. Eppure penso che coloro che sono in viaggio vorrebbero essere a casa, vicino a questo bel fuoco vivo. Non c'è luogo come casa, dice il poeta, benché io possa vagare tra piaceri e palazzi. Comincia così, ed è molto bello e molto vero. È una grande benedizione avere una casetta graziosa come questa, no, Molly? Sì, convenne la ragazza, piuttosto tristemente, visto che al momento provava un sentimento di toujours perdri. Se solo fosse potuta partire con suo padre, solo per quei 2 giorni, come sarebbe stato bello. Di certo, amor mio, sarebbe incantevole se io e te potessimo farci un viaggetto tutte sole, tu e io, nessun altro. Se il tempo non fosse così terribile, avremmo fatto un piccolo tour improvvisato. Sono settimane che desidero qualcosa del genere, ma la nostra vita qui è così limitata. Dichiaro che a volte solo vedere i tavoli e le sedie che conosco così bene mi dà la nausea. E poi si sente la mancanza di chi non c'è. Sembra tutto così piatto e deserto senza di loro. Sì, stasera siamo in condizioni miserande, ma penso che in parte dipenda dal tempo. Assurdità, cara. Non posso permettere che tu ti lasci andare alla sciocca idea di farti influenzare dal tempo. Il povero caro Mr. Kirkpatrick era solito dire: un cuore allegro fa spuntare il proprio sole. Me lo ripeteva con la sua grazia ogni volta che mi sentivo un po' giù. Perché io sono proprio un barometro. Puoi giudicare che tempo fa semplicemente osservando il mio umore. Sono sempre stata una creatura così sensibile. È un bene per Cinzia che non abbia ereditato questa cosa. Non credo che lei si lasci facilmente impressionare, vero? Molly ci pensò per 1 minuto o 2, poi rispose: no, non si lascia facilmente impressionare. Non profondamente, direi. Molte ragazze, per esempio, sarebbero emozionate per il fatto di avere l'ammirazione che ha suscitato lei, voglio dire, le attenzioni che ha ricevuto quando era dallo zio l'estate scorsa. Da Mr. Kirkpatrick? Sì, c'era Mr. Henderson, il giovane avvocato, cioè sta studiando legge, ma ha una sua fortuna personale e probabilmente ne avrà di più. Perciò posso dire che sta giocando a fare il giurisperito. Mr. Henderson era morto d'amore per lei. Non è una mia fantasia, anche se di certo le madri sono di parte. Sia Mr. Kirkpatrick che sua moglie lo hanno notato. E in una delle sue lettere, Mrs. Kirkpatrick ha scritto che il povero Mr. Henderson stava partendo per la Svizzera per le vacanze lunghe, di sicuro per cercare di dimenticare Cinzia. Ma lei crede davvero che qualsiasi ulteriore allontanamento significherà solo dover trascinare una più lunga catena? Ho pensato che fosse una citazione molto bella ed espressa molto bene. Un giorno o l'altro devi conoscere la zia Kirkpatrick, Molly, amor mio. Lei è quel che definisco una donna dall'intelletto molto elegante. Non posso fare a meno di pensare che è un peccato che Cinzia non abbia parlato loro del suo fidanzamento. Non è un fidanzamento, mia cara. Quante volte te lo devo dire? Ma come lo devo chiamare? Non vedo perché tu lo debba chiamare in qualche modo. E poi non capisco cosa tu intenda con lo. Dovresti sempre tentare di esprimerti in modo intellegibile. Questo è veramente uno dei principi della lingua inglese. In effetti, i filosofi potrebbero chiedersi perché ci sia stato dato il linguaggio, se non per permetterci di rendere comprensibili le nostre idee. Ma c'è qualcosa tra Cinzia e Roger. L'uno per l'altra sono più di quanto io sia, per esempio, per Osborne. Come lo devo definire? Non devi mai associare il tuo nome a quello di uno scapolo. È così difficile insegnarti la delicatezza, mia cara? Forse si potrebbe dire che c'è un rapporto particolare tra la cara Cinzia e Roger, ma è molto complicato definirlo e non ho dubbi che questa è la ragione per cui lei preferisce non parlarne. In effetti, detto tra noi Molly, a volte penso davvero che non se ne farà niente. Lui è lontano da tempo, è in confidenza. Cinzia non è proprio costante. Un tempo la sapevo molto presa, ma quella passioncella è passata del tutto e a suo modo lei è stata molto cortese con Mr. Henderson. Immagino che questo l'abbia ereditato, perché quando ero ragazza io ero circondata di innamorati e non avevo mai cuore di liberarmene. Non hai sentito il caro papà dire nulla del vecchio Squire o del caro Osborne, vero? Sembra passato così tanto da quando abbiamo saputo qualcosa di Osborne e da quando l'abbiamo visto l'ultima volta. Ma credo stia bene, altrimenti ne avremmo sentito parlare. Penso sia del tutto in salute. Qualcuno ha detto l'altro giorno di averlo incontrato a cavallo. Era Mrs. Goodenough, adesso mi ricordo, e che sembrava più in forze di quanto non fosse apparso per anni. Davvero, sono proprio felice di sentirlo. Sono sempre stata affezionata a Osborne, e sai, non l'ho mai preso in simpatia a Roger. Lo rispettavo e tutto, naturalmente, ma paragonarlo a Mr. Henderson. Mr. Anderson è così bello, cortese, tutti i suoi guanti vengono da Hubigan. Era vero che non vedevano Osborne Hamley da tanto tempo, ma come spesso avviene, proprio dopo che ne ebbero parlato, lui apparve. Il giorno dopo la partenza di Mr. Gibson, Mrs. Gibson ricevette uno di quei messaggi, che non erano più frequenti come una volta, dalla famiglia in città, in cui le si chiedeva di recarsi a Lettori per prendere un libro, un manoscritto o qualcos'altro, che Lady Kemnor voleva con l'impazienza tipica di chi non sta bene. Era proprio il genere di occupazione che Mrs. Gibson desiderava per svagarsi in una giornata così cupa e la mise immediatamente di buon umore. La cosa implicava un certo grado di importanza confidenziale, poi era una distrazione e le concedeva la possibilità di una piacevole corsa in calesse verso una dimora nobiliare e il senso di tornare a essere temporaneamente la padrona di quelle magnifiche stanze, un tempo a lei così familiari. In un impulso di gentilezza chiese a Molly di accompagnarla, ma non le dispiacque affatto quando la ragazza si scusò, preferendo restare a casa. Alle 11 Mrs. Gibson era uscita, indossando i suoi migliori abiti della domenica, per usare un'espressione dei domestici che lei avrebbe disprezzato, ben vestita, per imporre la propria presenza alla servitù delle torri, dato che non c'era nessun altro da incontrare o da cui farsi vedere. Non sarò di ritorno fino a questo pomeriggio, mia cara, ma spero che non ti annoierai. Penso di no, perché tu sei un po' come me, amor mio. Mai meno sola di quando sei sola, come ha scritto giustamente uno dei grandi autori. Molly si godette la solitudine della casa tanto quanto Mrs. Gibson si godette le torri tutte per sé. Osò farsi portare in salotto un vassoio con il pranzo, così da poter mangiare i sandwich continuando a leggere il suo libro. Nel bel mentre fu annunciato Mr. Osborne Hamley. Quando entrò, Molly lo trovò terribilmente malato, a dispetto del resoconto sul suo aspetto sano riportato dalla miope Mrs. Goodenough. «Questa visita non è per voi, Molly», disse il giovane dopo i primi saluti. «Speravo di trovare a casa vostro padre, pensavo che l'ora di pranzo fosse la migliore». Si era seduto, come profondamente lieto di potersi riposare, ed era scivolato in una posizione abbandonata, debole, come se per lui fosse così naturale che neppure il senso di quella che era considerata buona educazione potesse bastare a limitarlo. «Spero non voleste vederlo per motivi professionali», disse Molly, domandandosi se fosse saggio alludere alla sua salute, eppure spinta a chiedere per autentica preoccupazione. Ma è così? Posso prendere una galletta e un bicchiere di vino? No, non suonate, basta questo. Non potrei mangiare altro se fossi qui. Ho bisogno solo di un boccone. È sufficiente, grazie. Quando torna vostro padre? È stato chiamato a Londra. Lady Kemnor è peggiorata. Immagino sia in corso una qualche operazione, ma non so. Sarà di ritorno domani notte. Molto bene. Dunque dovrò aspettare. Forse per allora starò meglio. Penso si tratti di una mezza fantasia, ma vorrei che fosse vostro padre a dirmelo. Riderà di me, probabilmente, ma non credo che ci farà caso. È sempre severo con i malati immaginari, non è vero, Molly? Molly Pensò che se il padre avesse visto Osborne in quel momento, lo avrebbe difficilmente reputato un malato immaginario e difficilmente sarebbe stato severo. Ma disse solo: "A papà piace scherzare su tutto, lo sapete, è un conforto con tutte le sofferenze che vede." Verissimo, c'è molto dolore nel mondo. Non penso che dopo tutto sia un luogo felice. E così Cinzia è andata a Londra, aggiunse dopo una pausa. Mi sarebbe piaciuto rivederla. Povero vecchio Roger, l'ama moltissimo Molly, disse. Molly non sapeva cosa rispondergli, era così colpita dal cambiamento della sua voce e dei suoi modi. La mamma è andata alle torri, ricominciò. Lady Kemnor desiderava diverse cose che solo la mamma è in grado di trovare. Le dispiacerà non avervi visto. Abbiamo parlato di voi solo ieri e lei ha osservato che era molto che non vi vedevamo. Penso di essere diventato sconsiderato. Mi sono spesso sentito stanco e malato e l'unica cosa che riuscivo a fare era fingere un'espressione coraggiosa di fronte a mio padre. Perché non siete venuto a vedere papà? Chiese Molly. O non gli avete scritto? Non saprei, mi sono lasciata andare. A volte stavo meglio, a volte peggio. Fino a che oggi mi sono fatto coraggio e sono venuta a sentire ciò che vostro padre ha da dirmi. Invano, a quanto pare. Mi dispiace tanto, ma è solo per 2 giorni. Verrà a visitarvi non appena ritorna. Ricordate, Molly, non deve mettere in agitazione mio padre, disse Osborne, premendo sui braccioli della sedia per mettersi in posizione eretta e parlando con fervore per un momento. Vorrei tanto che Roger fosse a casa, affermò, ritornando allo stato di prima. Mi capisco, ribatté Molly. Mi credete molto malato, ma non è solo che ora siete stanco. Non era certa se avrebbe dovuto comprendere ciò che gli stava passando per la testa, però era così e non poteva non parlargli sinceramente. Beh, talvolta penso davvero di essere molto ammalato, e poi di nuovo credo che sia solo questa vita depressa a riempirmi di fantasie e di esagerazioni. Tacque per un po', poi, come se avesse preso una decisione improvvisa, soggiunse: Vedete, altre persone dipendono da me, dalla mia salute. Non avete dimenticato quel che avete udito quel giorno nella biblioteca in casa? No, so che non l'avete dimenticato. Da allora ho visto spesso quel pensiero nei vostri occhi. Allora non vi conoscevo. Ora penso di sì. Non continuate a parlare così in fretta, lo pregò Molly. Riposatevi. Nessuno ci interromperà. Io continuerò a cucire. Quando vorrete aggiungere qualcosa, vi ascolterò. Era infatti allarmata dallo strano pallore che vedeva intensificarsi sul suo viso. Vi ringrazio. Dopo un po' il giovane si riprese e ricominciò a parlare molto tranquillamente, come se l'argomento fosse una cosa di nessuna importanza. Il nome di mia moglie è, ahimè, ahimè Hamley, ovviamente. Vive a Bishop Field, un villaggio vicino a Winchester. Scrivetevelo e tenetevelo per voi. È francese, cattolica ed era una domestica. È proprio una brava donna. Non so dire quanto mi sia cara, non oso. Una volta avevo intenzione di confidarmi con Cinzia, ma lei non sembrava considerarmi veramente un fratello. Forse era timida di fronte a una nuova amicizia, ma voi le riporterete il mio affetto lo stesso. È un sollievo pensare che qualcun altro sia a conoscenza del mio segreto. E voi siete come una di noi, Molly. Posso fidarmi di voi quasi come di Roger. Mi sento già meglio, adesso che so che qualcun altro è al corrente delle circostanze in cui si trovano mia moglie e mio figlio. Figlio? Esclamò Molly, sorpresa. Ma prima che lui potesse replicare, Maria annunciò: Miss Phoebe Browning! Piegate questo foglio, ordinò Osborne frettolosamente, mettendole qualcosa in mano. È unicamente per voi. Capitolo 46. I pettegolezzi di Hollingford. Mia cara Molly, perché non sei venuta a pranzo da noi? Ho detto a mia sorella che sarei venuta a sgridarti ben bene. Oh, Mr. Osborne Hamley, siete voi? E un'espressione di errato convincimento a proposito del tête-à-tête che aveva interrotto spuntò così visibilmente sul volto di Miss Phoebe che Molly colse l'occhiata comprensiva di Osborne ed entrambi sorrisero all'idea. Di certo io. Beh, a volte bisogna. Vedo che il nostro pranzo sarebbe stato. E poi ritornò in sé, formulando una frase coesa. Abbiamo appena saputo che Mrs. Gibson ha ordinato il calesse della George, dato che mia sorella ha mandato la vostra Nancy a versare il pagamento per la coppia di conigli catturati da Tom Ostler. Mi auguro che non saremo considerate come dei bracconieri, Mr. Osborne. Mettete le trappole. Non richiede una licenza, o mi sbaglio? E la ragazza ha saputo che lui era partito per le Torri con il calesse insieme alla tua cara mamma. Cox, infatti, che lo guida di solito, si è preso una storta alla caviglia. Avevamo appena finito di mangiare, ma quando Nancy ci ha detto che Tom Ostler non sarebbe tornato fino a sera, io ho detto: insomma, quella povera cara ragazza è rimasta tutta sola e sua madre era tanto nostra amica. Quando era viva, voglio dire. Ma di certo sono contenta di essermi sbagliata. Osborne disse: sono venuto per vedere Mr. Gibson, non sapendo che si era recato a Londra. Miss Gibson mi ha gentilmente offerto parte del suo pranzo. Ora devo andare. Oh, povera me, mi dispiace tanto, replicò Miss Phoebe, tutta agitata, di avervi disturbati, ma è stato fatto con le migliori intenzioni. Sin da bambina sono sempre stata mal a propos. Ma Osborne era uscito prima che lei terminasse di scusarsi. Prima che se ne andasse, i suoi occhi avevano incontrato quelli di Molly con una strana espressione di sofferente addio che al momento la colpì e che in seguito avrebbe ricordato intensamente. Sono entrata nel mezzo di una cosa bella e appropriata e ho rovinato tutto. Di certo tu sei molto gentile, mia cara, considerando. Considerando cosa, mia cara Miss Febe? Se state pensando a una storia d'amore tra me e Mr. Osborne Hamley, non siete mai stata tanto in torto in tutta la vostra vita. Mi pare di avervelo già detto. Vi prego di credermi. Oh sì, mi ricordo. E in qualche modo mia sorella si era messa in testa che si trattasse di Mr. Preston. Mi ricordo, sì. Questa ipotesi è errata quanto l'altra, assicurò Molly con un sorriso. E tentando di sembrare perfettamente indifferente, ma arrossendo tutta per il fastidio che le causava la menzione del nome di Mr. Preston. Per lei era molto difficile sostenere un qualunque tipo di conversazione, perché il suo cuore era gonfio per Osborne, per il suo aspetto così cambiato, i suoi malinconici presagi e le sue confidenze riguardo a sua moglie, una francese, una cattolica, una serva. Molly non poteva evitare di unire a queste strane circostanze le proprie fantasie, e per lei fu arduo badare alle gentili e incessanti chiacchiere di Miss Febe. Tornò sulla terra, però, quando la voce si fermò, ed ella poté rievocare, come meccanicamente, l'eco delle ultime parole, che sia per via dell'espressione di Miss Febe, sia per l'accento morente che le indugiava nelle orecchie, Molly capì essere quelle di una domanda. Miss Phoebe le stava chiedendo se volesse uscire con lei. Era diretta a Grinstead, il libraio di Hollingford, il quale, oltre ai suoi affari normali, era l'amministratore della società del libro di Hollingford. Riceveva le sottoscrizioni, teneva i conti, ordinava i volumi da Londra e, dietro pagamento di un piccolo stipendio, consentiva all'associazione di tenere i suoi libri sugli scaffali del proprio negozio. Chiunque in quel luogo avesse pretese di distinzione ne era socio. Quello era il centro delle notizie dei pettegolezzi, il club, per così dire, della cittadina. In effetti, appartenervi era un indice di cortesia piuttosto che di erudizione o di amore per la letteratura. Nessun bottegaio avrebbe pensato di entrare a farne parte, per quanto potesse capirne e amasse la lettura. Al contrario, l'associazione vantava nella lista dei suoi sottoscrittori la maggior parte delle famiglie altolocate dei dintorni, alcune delle quali si iscrivevano alla Società del Libro di Hollingford per una sorta di dovere imposto dal loro status sociale e spesso senza avvalersi del privilegio di leggere i libri. Peraltro, molte residenti della cittadina, come Mrs. Goodenough, nel loro privato consideravano la lettura un'enorme perdita di tempo, che sarebbe stato meglio speso cucendo, lavorando a maglia, impastando. E tuttavia si iscrivevano come segno di distinzione, proprio come da buone matrone avrebbero reputato una terribile rovina sociale il non avere una bella e giovane servetta che le andasse a prendere la sera alle festicciole da tè. In ogni caso, Grinstead era un posto molto adatto per ciondolare. Su questo aspetto della società del libro erano tutti concordi. Molly andò di sopra per prepararsi ad accompagnare Miss Phoebe e, aprendo uno dei cassetti, scorse la busta di Cinzia, che conteneva le banconote da restituire a Mr. Preston, sigillata con cura come una lettera. Era quanto Molly aveva promesso, decisamente a suo malgrado, di consegnare. L'ultimo, il colpo finale di tutta quella faccenda. Molly prese la busta in mano e la detestò. Per un momento se n'era dimenticata ed eccola lì, che la guardava, e lei doveva tentare di sbarazzarsene. Se la mise in tasca, nel caso di un'opportunità durante la giornata di una passeggiata, e la fortuna per una volta parve esserle amica. Infatti, entrando nel negozio di Grinstead, in cui due o tre persone erano come al solito riunite a far finta di esaminare i libri o di essere intente a scrivere titoli di nuove opere nel registro degli ordini, ecco Mr. Preston. Egli si inchinò quando entrarono, non poteva evitarlo, ma alla vista di Molly il giovane apparve straordinariamente di malumore, privato di ogni spirito. Nella sua mente lei era associata alla sconfitta e alla mortificazione. Inoltre, la vista della ragazza richiamava ciò che egli desiderava dimenticare sopra ogni altra cosa, ovvero la netta convinzione, comunicatagli con semplice serietà di Molly, che Cinzia lo odiava. Se Miss Phoebe avesse visto il cipiglio arcigno sul suo bel viso, avrebbe potuto smentire le supposizioni della sorella a proposito di lui e Molly. Ma Miss Phoebe, che non considerava adatta a una signorina avvicinarsi a Mr. Preston e scorrere gli scaffali dei libri a stretto contatto con un gentiluomo, trovò qualcosa da fare all'altro capo della bottega e impiegò il tempo a comprare carta da lettere. Con le dita Molly sfiorò l'inestimabile busta che giaceva nella sua tasca. Avrebbe osato raggiungere Mr. Preston per consegnargliela o no? Mentre era ancora indecisa, indugiando sempre proprio nel momento in cui pensava di avere il coraggio di compiere quel gesto, Miss Phoebe, che aveva terminato i suoi acquisti, si voltò e, dopo aver contemplato un po' pateticamente la schiena di Mr. Preston, mormorò a Molly: «Penso che ora andremo da Johnson e torneremo per i libri tra un po'». Così attraversarono la strada diretta al negozio di Johnson. Ma non appena furono entrate nella merceria, la coscienza di Molly le rimorse per la sua concordia e per aver perso una buona occasione. «Torno subito», disse, mentre Miss Phoebe era impegnata con le compere. Ritornò allora di corsa da Grinstead, senza guardare né a destra né a sinistra. Aveva tenuto d'occhio la porta e sapeva che Mr. Preston non era uscito. Entrò, lui era al bancone e parlava con Grinstead. Con sua sorpresa e quasi contro la sua volontà, Molly gli mise in mano la lettera e si voltò subito per tornare da Miss Phoebe. Sulla porta del negozio c'era Mrs. Goodenough. Stava facendo il suo ingresso ed era immobilizzata lì, a fissare con gli occhi tondi, che gli occhiali rendevano ancora più tondi e simili a quelli di una civetta, la scena di Molly che consegnava una lettera a Mr. Preston. Una lettera che lui, consapevole di essere osservato e favorendo per abitudine i sotterfugi, si era infilato velocemente in tasca senza aprire. Forse, se avesse avuto tempo di riflettere, non avrebbe avuto scrupoli a svergognare Molly pubblicamente, rifiutando ciò che gli veniva imposto con tanto zelo di accettare.